Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo anche del mercato del lavoro o del mercato del non lavoro, soprattutto se parliamo dei giovani, perché c'è un rapporto oggi sia del Censis che stima appunto in 1.300.000 i lavoratori che sono scomparsi professionalmente, ci mancherebbe, tra i 25 e i 39 anni nei 5 anni della crisi, dal 2007 al 2012. Sono soprattutto i lavoratori dai 25 ai 39 passati da 11 milioni a 9 milioni quasi in 5 anni, da quasi 11 milioni a poco più di 9 milioni. La differenza fa 1 milione e 300 mila occupati in meno in quella fascia, ripeto, 25-39 anni, ossia il 14% in meno. Se poi guardiamo il dato sui professionisti, quindi lavoratori autonomi, il dato è anche peggiore, nel senso che per la fascia sempre tra i 25 e i 39 anni sono scomparsi 455.000 professionisti, pari a un meno 20%. Questo nel giorno in cui poi scopriamo che Microsoft e Cisco sono le aziende migliori dove lavorare in Italia per ambiente, sicurezza, formazione e produttività. Questa è una classifica stilata da Great Place to Work. Poi insieme a RCS entra anche al nono posto tra i big Bottega Veneta, mentre si piazza terza tra le piccole e medie imprese la marchigiana Loccioni, specializzata in soluzioni per migliorare prodotti e processi. Comunque, sul podio delle grandi imprese dietro Microsoft ci sono Tetra Pak, scusatemi, e FedEx, Federal Express. Però al di là del miglior posto, secondo alcune caratteristiche, per lavorare, il problema è avere un posto per lavorare. E di questo parleremo anche perché è in corso la presentazione di un rapporto molto dettagliato in occasione della pubblicazione della rivista Aspenia, dell'Aspen Institute, proprio sui temi delle politiche anche europee per la disoccupazione giovanile. Parleremo anche di Moncler, debutto col botto, devo dire che vista le domande era ampiamente prevedibile il numero di domande rispetto all'offerta. Il titolo guadagna il 46,9, cioè il 47% a 14,99 euro. Poi Ferrovie Nord più 14,60, Telecom Italia anche qui molto forte, più 5% dopo BlackRock, è il miglior titolo tra quelle maggiore capitalizzazione, segue UniCredit più 4,60, Intesa San Paolo più 3,70, Fiat più 3,70, Popolare Emilia Romagna più 3%, Finmeccanica più 2,60 come il Banco Popolare e CNH, il 2,5 lo guadagna A2A e la Popolare di Milano, ma anche Prismian, il 2,30 Fondiera Sai, il 2,12 Enel e G-Tech, il 2% infine rialzo di Eni, negativa solo Autogrill che perde il 2% e World Duty Free che perde l'1,25%. Ma anche Tod's che perde l'1,20%. Dicevo, Moncler in borsa e borsa in generale, il rapporto e lo studio anche sulle politiche per l'occupazione giovanile, studio non banale perché per esempio, vi do un'anticipazione, fa notare come in Italia rispetto a altri paesi le riforme del mercato del lavoro, cioè la flessibilità nel mercato del lavoro, sia già molto presente, più che per esempio in Francia o in Germania, quindi non è un problema solo, certo che si possono fare riforme ulteriori, ma solo ed esclusivamente di riforme di flessibilità del mercato del lavoro. Qui il problema è avere il lavoro e avere anche una maggiore efficienza nell'incrocio tra domanda e offerta. Allora, dunque, vedo già molti messaggi, abbiate un po' di pazienza anche prima degli insulti, fatemi respirare. Andiamo avanti perché parleremo in apertura dei costi della politica. Perché lo dico? Perché oggi, come ogni anno, la UIL presenta uno studio molto dettagliato. La spesa complessiva per la politica, tema di estrema attualità. Ho visto anche i giornali un po' strani sabato, perché devo dire che noi, non in Sole 24 Ore né Radio 24, che ha espresso parecchie perplessità, non sulla riforma in sé, sul finanziamento ai partiti, che c'è il 2 per 1000 volontario e quant'altro, ma su due aspetti peculiari che poi ho visto anche essere ripresi. Uno sui tempi, cioè quindi andremo avanti a pagare fino al 2017, ho capito, scaglionandolo, ma insomma, poi però è arrivata il sorpasso a destra della proposta di Renzi di ieri. Però dire che i costi, il finanziamento pubblico ai partiti verrà finalmente e completamente eliminato nel 2017, annacqua di molto la portata della riforma, ma anche su alcune componenti che continuiamo a non capire. Non mi riferisco intanto ai soldi che vengono dati ai consigli e ai gruppi, diciamo, dei partiti all'interno delle regioni, i gruppi consiliari, che sono stati alla base degli scandali, molti degli scandali che abbiamo visto. Troppi soldi che fanno troppa gola per consiglieri troppo poco onesti delle volte. Ma dall'altra parte c'è anche il tema delle detrazioni. Cioè, io vorrei capire perché in un paese civile, ripeto, scusatemi se insisto, io posso detrarre fino a 30.000 euro, se verso soldi a un partito, fino al 37%, fino a 30.000 euro e fino a 70.000 euro un altro 26%. Se verso i soldi a una Onlus che si occupa di bambini nel terzo mondo, che si occupa di problemi sociali in casa, cioè che sia la Caritas, che sia Emergency, che sia Oxfam, non mi interessa, posso detrarre fino a un massimo di 2.000 euro, cioè il 26% fino a un massimo di 2.000 euro, cioè 530 euro a memoria. Ora, questo vuol dire che se io versassi 70.000 euro a un partito, arriverei a una detrazione intorno, cumulando i due scaglioni, intorno ai 18.000 euro. Se verso 70.000 euro a un'associazione di volontariato, arriva a detrarre massimo 533 euro. Se tutto questo vi sembra normale, le notizie in breve. Lo studio che adesso affronteremo della WIL stima una spesa complessiva di costi della politica. Attenzione, per non essere demagogici in senso stretto, non sono tutti costi comprimibili, non possiamo immaginare che non vi siano costi, però 23 miliardi di euro, il che vuol dire che ognuno di noi, ogni contribuente, paga 757 euro all'anno per quello che riguarda la spesa della politica. Nel dettaglio, 6 miliardi costa il funzionamento degli organi istituzionali dello Stato centrale, degli enti locali, in calo comunque del 4,5% rispetto al 2012. 2 miliardi e 2 costano le consulenze, qui prima o poi dovremmo anche affrontare il tema. Cotarelli, se ci ascolta, sulle consulenze c'è ciccia, eh? Cotarelli è il commissario alla Spending Review. Ancora 2 miliardi e 6 costa il funzionamento degli organi e delle società partecipate, 5 miliardi e 2 le altre spese, e qui c'è di tutto, dall'auto blu, il personale di assistenza ai politici, direzione AS, poi 7 miliardi, e poi cerchiamo di capire, è il sovrabbondante sistema istituzionale, da quello che capisco, un insieme di funzioni che sostanzialmente si sovrappongono nei vari livelli dell'amministrazione pubblica. 1.100.000 persone vivono in questo paese più o meno direttamente di politica, sono il 5% degli occupati. Poi ti chiedi anche perché ricevi certi messaggi e incontri certe resistenze. Adesso però l'ascoltatore, perché va bene tutto, che dice non faccio la solita demagogia populista penosa, mi deve spiegare che cosa c'è di demagogico in quello che abbiamo appena ricordato, e in penoso soprattutto, perché uno può non essere d'accordo, però lei mi deve spiegare perché io posso detrarre così tanto per se finanzia un partito e così poco, mettiamola così, e così poco se finanzia un Onlus, portatemelo allo stesso livello, anche per le malattie sia il 19%, no. Portiamo tutto allo stesso livello della politica, oppure portiamo le detrazioni per la politica allo stesso livello almeno delle Onlus, no? giustamente scrive un ascoltatore, beh, se licenzi anche queste persone, questo 1.100.000 persone, il paese affonda. Vabbè, allora teniamo tutto fermo, perché guardate che le riforme, non è che se riformi un apparato pletorico delle volte sulla politica crei solo nuova disoccupazione, perché magari liberi risorse per altre iniziative, magari spendiamo i soldi in altre iniziative, quindi creiamo altra occupazione più sana, più produttiva, no? Oh, andiamo avanti per quello che riguarda il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Anche oggi è tornato a ricordare come la ripresa dell'euro resti fragile e che si avrà una ripresa economica senza grossi effetti sulla disoccupazione, e quindi quella che gli americani chiamano jobless recovery, per cui cresce l'economia ma non crea occupati, perché la cinghia di trasmissione è lunga, perché non cresce abbastanza e sostanzialmente le imprese tendono a produrre di più e speriamo anche a fatturare di più, ma mantenendo invariato sostanzialmente il numero di occupati. Buona la bilancia commerciale europea a ottobre di tutti i paesi europei dell'area euro, scusatemi, con rispetto al resto del mondo. C'è un attivo di 17 miliardi. Noi siamo al quarto posto nella bilancia commerciale nell'export, o nella differenza tra export e import fuori dall'Europa. Dopo Germania, Olanda e Irlanda abbiamo un avanzo di 19,6 miliardi e infatti complessivamente il dato su ottobre vede un surplus di 4 miliardi, perché considera in questo caso anche le esportazioni dentro l'area euro, di 4 miliardi. Le importazioni sono crollate, meno 4,3% rispetto all'ottobre del 2012. Le esportazioni hanno fatto più 0,8. Dov'è che vanno le nostre merci, beni e servizi? In Germania più 2,5 sempre rispetto all'ottobre del 2012, Francia meno 2,8, Spagna meno 3,2, Gran Bretagna più 2,6, Russia più 4%, OPEC, paesi OPEC invariati, America, Stati Uniti più 12%, Cina più 16%, Giappone più 4,5%. per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. E allora parliamo dei costi della politica. Ripeto, qui non è sotto accusa che la politica abbia un costo, lo capiamo e lo sappiamo, e uno potrebbe anche obiettare che tranne la Svizzera, se non ricordo male, in altri paesi esistono i finanziamenti ai partiti, a parte il fatto che li avevamo aboliti con un referendum, piaccia o non piaccia, e sono rientrati con sostanzialmente i rimborsi elettorali che vengono distribuiti anche quando non ci sono elezioni. Ma al di là di questo, il problema non è immaginare una politica solo come atto volontaristico e che poi può essere fatta magari solo dai miliardari, oppure appunto da chi ci mette solo l'atto di volontà senza remunerazione. Qui il problema è capire quanto può costare la politica in questo paese, perché tra costo zero e 23 miliardi, secondo me, c'è lo spazio anche per avere una politica che costi meno. Oppure ci teniamo tutte le cose come stanno, va tutto bene così, madama la marchesa, però poi non ci dobbiamo lamentare. Poi c'è un messaggio bellissimo, dico bellissimo perché mette in evidenza quella che è la tendenza di questo paese a vedere o Guelfi o Ghibellini o bianco e nero, le sfumature di grigio, in questo caso stiamo parlando di analisi economica, ci mancherebbe, però vengono soppresse. Scrive un ascoltatore, lei è una contraddizione vivente perché denuncia ingiustizie e sprechi ma poi snobba i movimenti popolari come i Forconi. Allora io non li ho snobbati, li ho proprio criticati, per essere preciso. Beh, se lei non capisce, non è che nella vita o sei contro gli sprechi e a favore dei Forconi, oppure sei contro i Forconi e a favore degli sprechi. Che mondo è? Ho capito il bipolarismo, ma questo è il cervello all'ammasso. uno può dire che non è quello il modo per protestare, che non si capisce qual è la proposta in quel, in quella protesta, e poi mi sembra che tra di loro siano già spaccati in mille rivoli, e continuare a criticare gli sprechi della politica, il modo in cui vengono amministrate le nostre regioni e delle volte anche province e comuni. Come dire che uno può criticare questo tipo di Europa e di gestione dell'euro da parte della Germania, ma non essere per l'uscita dall'euro. Oppure se uno critica la Germania e questa Europa deve per forza uscire dall'euro. Ma che è? È 0-1-1-0, un mondo completamente così bipolare? No, puoi avere un giudizio un po' più articolato. Per esempio, uno può dire che la Corte dei Conti ha chiesto alla Regione Liguria chiarimenti per una spesa complessiva di 850.000 euro sostenuta dai gruppi del Consiglio regionale nella passata legislatura. La riforma al finanziamento dei partiti non tocca i finanziamenti ai gruppi consiliari. Infatti a gran parte dei consiglieri della Regione Liguria che erano in carica nel 2008 è arrivata in questi giorni una lettera con cui la Corte avverte che è in corso una verifica delle spese sostenute in quell'anno solare. Riguardano tutti i gruppi politici, quasi tutti i gruppi politici. In media ciascun gruppo deve giustificare spese dai 30 ai 90 mila euro. Ha inviato la Corte dei Conti la comunicazione a tutti gli eletti che erano in carica, ad eccezione di, nel 2008, Claudio Burlando, Claudio Montaldo e Renzo Guccinelli, divenuti presidente della Giunta e assessore alla sanità e attività produttive. Anche la commissione rendiconto, che è incaricata di verificare la congruità delle spese, viene chiamata in causa. E di nuovo contestazioni della Corte dei Conti riguardano anche 8 consiglieri e 3 capigruppo della Regione Lombardia, a cui vengono contestati 1,5 milioni di euro di rimborsi non giustificati. Come vedete, c'è la Liguria a guida centrosinistra, c'è la Regione Lombardia che è la guida centrodestra, e piantiamola di dire che mettiamo in evidenza solo alcuni colori politici. La Guardia di Finanza, infatti, avrebbe messo in evidenza spese che nulla hanno a che fare con l'attività politica. Nel mirino dei magistrati contabili della Corte dei Conti ci sono i 4 consiglieri del PDL: Carlo Saffiotti, Sante Zuffada, Angelo Giuseppe Gianmario, Marcello Raimoidi, i 4 della Lega: Alessandro Marelli, Cesare Bossetti, Roberto Pedretti, Ugo Parolo, e i 3 capigruppo in consiglio: Stefano Galli per il Carroccio, Giulio Boscagli e Paolo Valentini per il PDL. Non so quante ore abbiamo, ma perché i magistrati della Corte dei Conti contestano a Giuseppe Gianmario spese per quasi 115.000 euro, tra cui spiccano pranzi e cene, di cui una per 45 persone da 1.200 euro in un ristorante, 170 euro di addobbi floreali, 1.400 euro per biglietti da visita color avorio di Pinaider, cioè mica stamparli via, a parte che si possono usare anche le mail, comunque vabbè, 2.200 euro per 300 copie del libro di Gabriele Albertini, La lezione di Milano, 120 bottiglie di Re Fosco e 260 euro spesi per una serata al Night Nepenta, ufficialmente per un evento di comunicazione. Ma ce l'abbiamo una di quelle belle basi da Nepenta che usavamo tempo fa? Cos'era? Dead Mouse, Bob Sinclair, ma che siamo? Capito? Hanno messo veramente... Uno va al Nepenta, che è un noto night milanese dove uno balla, incontra signorine, tutte assolutamente legali, si diverte, bella musica. Ma che cavolo c'entrano 260 euro per rappresentanza politica al Nepenta? E a quando la trasferta di Ibiza per illustrare i temi europei o per i rapporti italo-iberici? E questo mi riferisco a Giuseppe Gianmario. Carlo Saffiotti del PDL dovrà giustificare rimborsi per 105.000 euro. A Santa Zuffada del PDL vengono contestate spese per 112.000 euro, inclusi eventi istituzionali tenutisi per 3 anni di seguito in diversi ristoranti il giorno del suo compleanno. Ascolti, Zuffada, ma almeno il giorno del suo compleanno non lavori, ma lo festeggi, vada fuori con la famiglia, paghi di tasca sua. A me veramente, lei non è Zuffada, lei è Stakhanov. Cioè, per diversi anni, per 3 anni ha caricato le cene istituzionali che ha tenuto il giorno del suo compleanno. È veramente un mito. Lo sapessero nel nord Europa, la smetterebbero di pensare che gli italiani, che la classe politica italiana lavora poco. Save me. Compleanno a carico dei contribuenti anche per il leghista Ugo Parolo, che si è fatto rimborsare il ristorante nel giorno del suo compleanno, pure qua. Oh, meno male che non c'erano mastico che si festeggia, sennò altro che costa la politica. E poi il consigliere Marelli della Lega mette a rimborso le spese in macelleria, che con la rappresentanza politica, sì, la macelleria sociale poteva mettere in rimborso, ma la macelleria bovina conta un po' meno. Gli acquisti di cosmetici, di sigari Toscanelli, ma che c'entrano i sigari Toscanelli con la rappresentanza politica sul territorio? Marcello Raimondi del PDL scarica sui contribuenti invece 2.500 euro per 120 copie del libro Maria Regina, icone dell'Italia del Sud, un libro che cioè, molto richiesto su Amazon. Se ce ne fa avere una copia a sto punto vediamo cos'è. E poi Roberto Pedretti si fa rimborsare anche i vini pregiati. Io capisco mantenere Made in Italy, il vitivinicolo, però insomma mi sembra eccessivo, no? Guardate, è due anni che abbiamo sta rubrica, non è che vogliamo averla, ma purtroppo ci arriva addosso. Io ne ho viste tante, prototipi di gabbie per avvistamento degli scoiattoli finanziati dalla regione Lombardia, avvistatori di neve in Friuli, corsi per maestri di sci da fondo sull'Etna, i camminatori in Sicilia. Però che uno metta il giorno del suo compleanno per tre anni di fila una cena come rimborso di una cena istituzionale con chi era presente, ancora non l'avevo vista. Ma non si smette mai di imparare. Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL, che dirige il dipartimento che ha condotto lo studio sui costi della politica. Buonasera. Buonasera, buon ascolto a tutti. Buon ascolto, con quello che leggo è dura. Mi dica una cosa però, poi dopo il metto le faccio l'intervista. Tra i costi della politica, secondo lei c'è anche il sindacato? Assolutamente no. Perché se lo finanziano? Ma chiedo, perché, tanto so già la domanda che mi arriva, quindi anticipo gli ascoltatori. Se per costi della politica si intende ciò che viene alimentato dai soldi delle tasse degli italiani, il sindacato non è tra questi, perché vive di contributi degli iscritti. Ok, e adesso no, va bene, perché tanto so già che dicono ecco la UIL, il sindacato, però io prendo le fonti che analizzano dati. Sì. Barisoni, lei come il suo collega Genta pensate di essere brillanti, invece siete patetici, fate piangere. Che facciamo piangere sicuro, anche perché Genta è milanista. Per cui, ma patetici, patetici non lo so. Comunque, lei continua a ascoltarci con questa attenzione, perché vedo che scrive ogni giorno. Fossero tutti come lei, avremmo un milione di ascoltatori. Meteo, pubblicità e poi cerchiamo di capire di questi 23 miliardi all'anno che costa la politica, quali potrebbero essere le spese comprimibili, perché alcune di queste obiettivamente non sono comprimibili. 349-238-6666 per i vostri sms e poi la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. C'è sempre qualcuno che scrive, ma deve essere un riflesso pavloviano quando parliamo dei costi della politica. C'è sempre qualcuno che scrive: vabbè, però fate tanto i moralisti con la politica, però anche nelle aziende private il manager con la carta di credito va a mangiare, porta fuori l'amante oppure porta fuori, va a mangiare. Allora vediamo di capirci. Sono soldi nostri, quelli dell'azienda privata, non me ne frega niente, stabilirà il manager interno, i revisori, gli azionisti, se poi glielo lasciano fare, ma che faccia, abbiamo visto di tutto capitare nel capitalismo italiano, no? E ne pagano le conseguenze chi ci mette i soldi, gli azionisti, ma quello che fa arrabbiare è che questi non sono soldi dell'azienda X, che decide di dare dei bonus giusti o sbagliati, in alcuni casi a mio avviso anche sbagliati nel loro montare, ai top manager. o ai dipendenti. Sono, sono fatti privati, questi sono soldi pubblici che vengono presi dalle tasche degli italiani e messi a pagare, in questo caso, i 3 anni di cena e di lavoro sempre il giorno del tuo compleanno. Oh, ci capiamo su questo, no? Allora, 23 miliardi di euro costa la politica, 757 euro annui per ogni singolo italiano. Guglielmo Loi, 6 miliardi e 100 milioni per il funzionamento degli organi istituzionali dello Stato centrale e degli enti locali. Qui c'è una buona notizia, meno 4,6% rispetto al 2012. 2 miliardi e 2 per le consulenze, 2 miliardi e 600 milioni per il funzionamento degli organi delle società partecipate, 5 miliardi e 200 milioni per altre spese, e con le vecchie lire saremmo a 10.000 miliardi, un po' di più, auto blu, personale di assistenza, 7 miliardi, anche qui con le vecchie lire saremmo a quasi 14.000 miliardi delle vecchie lire, per il sovrabbondante sistema istituzionale, con 1.100.000 persone che vivono di politica, ossia il 5% degli occupati. Allora, di queste voci facciamo un gioco. Qual è quella dove, se lei dovesse dare un consiglio a Cottarelli, si può tagliare di più? Ah, ce n'è uno elementare che è stato usato ultimamente per tagliare la spesa, è un bel taglio lineare. Vale a dire che a tutte le istituzioni si dice potete avere paradossalmente lo stesso numero di parlamentari, di consiglieri regionali, comunali, ma sappiate che la spesa si deve ridurre del 30%. Si può dire che le segreterie particolari dei ministri, dei sottosegretari, degli assessori regionali, anziché 10 persone ne possono avere 7, quindi un altro taglio del 30%, perché spesso sono assunti da fuori. Cioè, quindi, scusi, questa è la voce sovrabbondante sistema istituzionale? Spese istituzionali. Il sovrabbondante sistema istituzionale è quello che tutti quanti vediamo, che oggi per avere un'autorizzazione devi passare nelle grandi città, dal municipio, al comune, alla provincia, alla regione, al consorzio dei comuni, al lato dell'acqua, al lato dell'ambiente e poi su a salire ministeri vari. Troppi livelli istituzionali che costano e soprattutto intralciano un processo decisionale. E poi l'accorpamento dei comuni, 8.000 comuni non sono più gestibili, perché ogni comune deve avere un segretario comunale, deve avere un collegio dei sindaci, deve avere un capo dei vigili urbani, deve avere un responsabile del cimitero, deve avere un ufficio tecnico. Se mettiamo insieme, come si fa in qualsiasi azienda, alcuni centri di costo li unifichiamo, è chiaro che il mio potere contrattuale nei confronti del fornitore aumenta e abbasso il costo dei prodotti che devo comprare. Sì, ci sono, se non ricordo male, 30.000 centri appaltanti in questo paese, le risulta? Cioè ci sono 30.000 centri che possono indire gare d'appalto per un lenzuolo, per una stampante, per un computer, per le pulizie. Ecco, immaginate un po' voi, è chiaro che non li puoi, molte volte ne abbiamo parlato col professor Piga, accorparli troppo rischi di danneggiare le piccole e medie imprese perché che non riescono a reggere appalti troppo grandi, però anche 30.000. Sì, ma anche la semplice, come dire, razionalizzazione delle figure apicali. Se io ho 3 comuni da 5.000 abitanti, ripeto, con un capo dei vigili urbani e un responsabile ufficio tecnico, certo, è presumibile che la quantità di lavoro sia gestibile attraverso una sola figura e spostare queste risorse magari per dare servizi che non riescono a darsi. Insomma, sono interventi che come dire, hanno un costo molto politico, ma sicuramente una convenienza economica. Ancora, quindi la voce su cui lavorare di più 7 miliardi sul sistema istituzionale. Per quello che riguarda invece i 2 miliardi e 2 delle consulenze, su cui in questi anni abbiamo raccontato di tutto, qualunque corso, libro, progetti assurdi, prego. Sì, è inutile spendere parole, noi facciamo un ragionamento macro e sono tanti e impressionano, certamente una parte di essi. Peraltro quelli a minor costo sono necessari, faccio un esempio, l'interprete a un tribunale, certo, ma ci mancherebbe, ucraino, eccetera, ma queste cose basta leggere l'elenco, valgono 200 euro, 300 euro, 500 euro, quindi una parte vanno salvaguardati. Il resto, il problema vero qual è? È che le risorse dentro le amministrazioni, quindi che già paghiamo per gli stipendi, sono sottoutilizzate perché si preferisce come dire, ricambiare politicamente attraverso una consulenza qualcuno che magari ha portato qualche voto. Ma dai, cioè lei mi sta dicendo che nelle consulenze, al di là di quelle assolutamente giuste e doverose, lei citava gli interpreti, ma ce ne possono essere molte altre. Assolutamente. Anche perché tu puoi avere una consulenza di un perito perché non ce l'hai veramente in casa, può essere certo. Un comune piccolo, può essere, e comunque può non averlo. Lei dice che dentro la voce 2 miliardi e 200 milioni di consulenze ogni anno si può nascondere l'ipotesi di avvantaggiare qualcuno per fini politici? Beh, diciamo che c'è stata un'evoluzione. Un'evoluzione, un'involuzione, abbia pazienza. Un'involuzione, che evoluzione? Darwin si rivolta nella tomba, se mi dice evoluzione. Magari ci sono meno tangenti, però può mantenere, il problema è mantenere una macchina esplosiva. Meno tangenti, ma più consulenze, vabbè, ho già capito il titolo. Posso dare un dato, cioè l'apprezzamento verso la politica, purtroppo, a quanto è? Negli ultimi anni non è cresciuto, diciamo così, in maniera diplomatica. Perché il numero delle preferenze, le elezioni regionali, piuttosto che comunali o addirittura europee, rimane altissimo? Evidentemente quella è una macchina che macina consenso, naturalmente. Cioè, un attimo, lei mi sta dicendo, nonostante tutti i dati e i sondaggi dimostrino che la politica non gode di buona pubblicità, esatto. E c'è una disaffezione degli italiani, quando si va a votare con il meccanismo delle preferenze, quindi regioni ma anche Europa, le preferenze sono tantissime. E il suo sospetto cos'è? Non che uno abbia un innamoramento improvviso. Ma insomma, ci sono persone che non sono conosciutissime, diciamo così, e che hanno un grande appeal ideologico ideale, eppure prendono 18.000, 20.000, 22.000, 25.000 voti nelle grandi regioni. Sono una marea di persone che scrivono il cognome su un pezzo di carta che è l'urna elettorale. Adesso pensare che appunto sia frutto della popolarità, persone che, ripeto, abbastanza sconosciute alla stragrande dei cittadini, maggioranza dei cittadini, è arduo. Evidentemente dietro c'è un esercito che ognuno porta i 100 voti, 200 voti. Una parte di essi potrebbe farlo perché ha avuto un buon rapporto con... Sì, ma anche perché vediamo i gruppi consigliari delle regioni spendere molto per l'attività esatto, sul territorio. Adesso quelli sono stati, come dire, un po' esagerati nel comprare il vino per il compleanno. Però, ma anche nel mettere una cena in carico per 3 anni di fila ogni giorno che c'è il tuo compleanno, esatto, c'è una cena di lavoro. Neanche tanta fantasia, ma il proliferare di finanziamenti a sagre paesane piuttosto che a feste, certo, piuttosto che incontri, è chiaro che non sto parlando di illegalità, perché forse non saranno manco illegali, ma oggettivamente sembra l'alimentare, diciamo, un sistema economico che poi porta consenso. Allora, tra l'altro vedo anche delle voci sui costi di funzionamento, per esempio gli organi costituzionali, perché va detto anche le cose positive, sono calati come costo nel 2013 rispetto al 2012 dell'8%, poi Presidente del Consiglio dei Ministri ha fatto più 11%, Monti. Letta. Monti Letta. Il pezzo di Letta è... Cioè la Presidenza del Consiglio dei Ministri da 411.000 euro l'anno... Adesso costa 458.000, 47.000 euro in più. A me non sembra che il paese abbia visto un incremento del PIL dell'11%. Perché sta roba? Probabilmente c'è il pezzo di ministeri senza portafoglio che stanno presso la Presidenza del Consiglio e che costano. Vabbè. Meglio è andata, meglio è andata gli uffici di diretta collaborazione dei ministeri. Meno 5%, il totale delle amministrazioni centrali, cioè dello Stato, come lo chiamo in gergo, ha fatto meno 4%. Devo in dire gran che parte, in gran parte posso integrare, diciamo così, deriva dai 90 milioni in meno al finanziamento pubblico. Ah, ecco. Cioè non che abbiano ridotto veramente le spese vive. Può avere mille difetti, però no. Il giusto ricordarlo. Del finanziamento pubblico l'ha fatto durante il governo Monti, sempre troppo poco, però sono 90 milioni che su 123 è una certo, e quindi questo è il dato, per cui non c'è stato un risparmio effettivo di efficienza sulla macchina meno, sì. Nella macchina con degli organi costituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, vabbè. E questo fa perché gli organi costituzionali voi intendete Parlamento in primo luogo, ma non solo, anche no? Corte dei Conti, Camera, costano 2 miliardi l'anno, però abbiamo risparmiato 1 miliardo e 800 milioni, 160 milioni, siamo sempre con costi molto più alti rispetto alla media europea. Vabbè. Le regioni, qui io vedo una buona notizia, meno 11,5% sono costate quest'anno 1 miliardo e 27 milioni contro 1 miliardo e 160 milioni dell'anno scorso. Sì, beh, l'effetto un po', diciamo, dei vari fiorito che sono proliferati, quindi oggettivamente in alcuni preventivi del 2013 hanno cominciato a stringere un pochino, sempre troppo poco ovviamente, però è un po' il risultato di una, come dire, evidente necessità di dare qualche risposta a quello che hai descritto anche prima lei, insomma, in qualche modo. Vabbè, province, meno 6%, costano 400.000 euro, 24.000 euro in meno. Sì, molte di esse sono commissariate, per cui non c'è stato più il consiglio provinciale. Oh, ma lei non me ne fa passare una, eh? Cioè, tutti i risparmi che vedo, vediamo lei, vabbè, comunque, i comuni costano uguale, sostanzialmente, 1 miliardo e 700 milioni di euro. Sì. Vuol dire qualcosa? Il totale degli enti territoriali meno 5%. Lei questo meno 5%, che vuol dire aver risparmiato 293.000 euro, perché 293 milioni di euro, perché complessivamente regioni, province e comuni sono costate quest'anno 6 miliardi e 118 mila euro contro i 6 miliardi e 411 milioni di euro dell'anno scorso. Dice il risparmio grosso delle amministrazioni, degli enti territoriali è arrivato perché si spende meglio, si sta più attenti? No, è stato oggettivamente un intervento sui livelli regionali, sono diminuiti i consiglieri regionali, anche se la spesa per le regioni non è diminuita in proporzione al numero minore dei consiglieri regionali, il Lazio è passato da 70-50 a 71-50 ad esempio, in realtà poi è successo che quasi tutti hanno messo assessori esterni, per cui il dato è stato attenuato dal fatto che alcuni stipendi vanno pagati perché gli assessori non sono consiglieri regionali, quindi meritano, come dire, una loro indennità, diciamo così. Quindi un passo avanti è stato fatto, un po' meno di casi fiorito, e quindi 133 milioni di euro. Senta, un'ultima domanda, è immaginabile, Loi, che un risparmio, diciamo, del 10% su questi 23 miliardi, secondo lei? Racconto un aneddoto, a un convegno sui costi della politica un deputato, quando io ho detto ma se uno da 15.000 passa a 12.000, cioè il 20% in meno, non è che muore di fame, e questo mi ha fatto, però sono lordi, gli stavano menando, perché ci mancherebbe pure che fossero onesti. No, vabbè, questo... però ripeto, non credo che caschi il mondo se uno passa da... No, ma dico il 10% in meno, una famiglia italiana in questi 4 anni ha dovuto spendere, se va bene, il 10% in meno, se va bene. Allora, io dico semplicemente, tu levi il 10% da queste spese, poi in alcuni casi ne leverai di più, leverai il 20, in un altro leverai il 5, però in media il 10% sono 23 miliardi, sono 2 miliardi e 3, abbiamo già trovato le risorse per il cuneo fiscale, per un pezzetto di cuneo fiscale, e beh, insomma, non è poco 2 miliardi e 3 per il cuneo, eh? E comunque avremo risolto anche il problema dell'IMU, a seconda di come uno la pensi, diciamo, politicamente, in una botta sola. Grazie al segretario della UIL, che è appunto diretto il dipartimento, che ha condotto lo studio, Guglielmo Loi, adesso il traffico. Questa la dedichiamo ai consiglieri regionali della Lombardia che hanno messo in nota spese la precedente giunta, anche 246 euro del Nepenta, noto night milanese, giustificandoli come evento di comunicazione. Allora, adesso c'è la borsa e c'è il caso Moncler. Una risposta devo dare a chi dice sì, però attenzione, anche le imprese ricevono soldi pubblici, e per esempio la cassa integrazione. Allora, io non metterei, non paragonerei la cassa integrazione, che può piacere o no, possiamo riformare gli ammortizzatori sociali, c'è un dibattito in corso, ma non metterei assieme la cassa integrazione guadagni a un dipendente che ha perso il lavoro, che è in cassa integrazione, con le spese, diciamo, al ristorante per il compleanno, fate passare come spese di lavoro. Che dice? Così, a naso. E poi i contributi alle imprese. Allora, qui bisogna capirsi, la stragrande maggioranza dei contributi che vanno alle imprese dello Stato, e in particolare anche alle Ferrovie dello Stato. Ferrovie dello Stato, non dico che sia sbagliato, dico semplicemente che la Confindustria in decine di occasioni ha detto rinunciamo a tutti i contributi che arrivano alle imprese, perché al privato arriva molto poco. Voi vedete la voce contributi alle imprese, andate a vedere lo scorporo di questa voce. rinunciamo purché vi sia un taglio del cuneo fiscale. Tanto poco interessa al mondo delle imprese private l'aspetto dei contributi. Chi festeggia oggi? Beh, festeggia Moncler, ma festeggia anche il neoazionista Giovanni Tamburi e quindi il fondo Tamburi Partners, che è entrato in Moncler. Perché? Perché il titolo ha fatto uno di questi botti che non si vedevano. Va bene che è un piumino, ma si è gonfiato più 46,7% a 15 euro per azione. Andrea Fontana, Radio Colli, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera Sebastiano. Tu che sei anche un esperto di Moncler, non perché tu sia un paninaro, ma perché ne hai scritto, c'è chi dice che insomma inizia a capitalizzare un po' tantino, però insomma, io non conosco il settore nel lusso, quindi raccontaci. Beh, sicuramente diciamo che se vediamo la chiusura di oggi, diciamo così, a spanne sugli utili di fine anno, Moncler tratta quasi 40 volte gli utili, quindi certamente 40 volte gli utili, ho capito multiple, che arriverà il freddo, ma vai. Esatto, quindi un multiplo veramente veramente elevato. Dal punto di vista della performance di oggi, Moncler, come tu hai ricordato, hai accennato, si inserisce tra il record degli ultimi anni. C'è stato Brunello Cucinelli che ha fatto un più 49% il primo giorno, se no bisogna andare forse con la memoria a Tiscali che aveva fatto più 54%. Certo. La capitalizzazione di borsa è già molto importante, 3,7 miliardi, superiore a molte blue chip del FTSE MIB, pensiamo a Tozz, a Mediaset, a Finmeccanica. Un andamento, cioè, dire, adesso io non ci capisco niente di borsa, però che Moncler capitalizzi in borsa più di Finmeccanica, insomma, l'abbiamo già visto, non voglio menare, non voglio gufare nessuno, però se no mi autodò il gufo, però siamo un po' tantino considerati gli asset industriali di Finmeccanica. È vero che il lusso tira, certo che se uno si fosse comprato Cucinelli e Moncler stava caldissimo e guadagnava anche una paccata di soldi. Comunque, concludi Andrea. Sì, certamente l'andamento di oggi, stando a guardare quello che dicono gli operatori, è un andamento fortemente speculativo, vista la forte pressione nell'IPO che c'è stata nei giorni precedenti. C'è da dire che anche molti investitori importanti erano stati o esclusi dall'assegnazione di titoli, visto che c'era stata una richiesta eccessiva, o ne avevano presi pochi, per cui c'è stata una forte Ne parliamo dopo il GR. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, Moncler, ma qualche previsione, Andrea Fontana, su un rapporto? Io sono contentissimo per la Moncler, resto perché è un po' di anni che facciamo questo programma e abbiamo già visto titoli quotare tantissimo, 40 volte gli utili mi sembra obiettivamente ottimistico, ma insomma mi fa poi impressione vedere che in questo momento Moncler capitalizzi in borsa quanto un gruppo come Finmeccanica o un gruppo come Mediaset. Per cui qualche analista ha fatto qualche previsione, oppure come tu ricordavi è anche l'effetto di tutti quegli esclusi, anche fondi grossi, istituzionali, che hanno comprato questa mattina? Beh, ancora è un po' presto per fare le valutazioni, ce ne sono state alcune in fase di quotazione. Diciamo che sostanzialmente, come molti hanno detto oggi, occorrerà qualche settimana per un aggiustamento e una visione un po' più chiara, diciamo, dell'andamento di questo titolo e nel suo rapporto con gli utili e le potenzialità di crescita. Molti si aspettano le risposte importanti sull'espansione dei mercati esteri, in particolare i mercati asiatici e quelli nordamericani, molti puntano il dito sulla differenziazione del prodotto, che sembra un po' il punto debole, diciamo così, di Moncler, cioè, ovvero la focalizzazione su un prodotto molto forte e quindi la necessità di allargare invece la gamma di prodotti e quindi anche la gamma di penetrazione nel mercato con questi prodotti ad altri capi d'abbigliamento vincenti. Comunque chapeau, va detta tutta, a Remo Ruffini e anche, come dicevamo prima, Giovanni Tamburi, che ha fatto un'operazione importante di quota dentro Moncler, ma Remo Ruffini per aver acquistato il marchio nel 2003, se non ricordo male, però correggimi Andrea se sbaglio, e per l'operazione con cui ha condotto questo collocamento in borsa, campagna pubblicitaria, tutto, insomma, i complimenti vanno, dopodiché le valutazioni sul titolo le faranno gli analisti. Andando invece ad altro, ho visto che anche Renzi ha parlato del Moncler, dice, però sì, parlava di Moncler e del fatto che i paninari degli anni 80 gli stessero antipatici, però vabbè. Però attenzione, perché questa è un'azienda francese, e se non ricordo male di Grenoble, sì. Che appunto Raimo Ruffini ha rilevato come marchio, un'operazione ogni tanto anche di Italia che va sull'estero. Dopo 2 ore di borsa già valeva 3 miliardi e mezzo di euro. Quanto è finita la capitalizzazione? È finita sopra i 3,7 miliardi di euro. E tra i 3,7 miliardi di euro. Tra i soci che hanno comprato azioni del gruppo Moncler ci sono anche Ferragamo, Zegna, Loro Piana, Bernard Arnault di Louis Vuitton Moanessi e il patron di Diesel Renzo Rosso. Poi come investitori istituzionali risultano anche i fondi sovrani del Qatar, di Singapore, di Cina e di Abu Dhabi. Quindi di nuovo complimenti all'operazione interna di collocamento. Comunque, altri titoli oggi in borsa molto bene, devo dire, Telecom Italia più 5%, qui c'è BlackRock. Sì, BlackRock è uscita finalmente allo scoperto, ha fatto un po' di chiarezza, ha comunicato di avere il 7,8% e di avere una quota superiore al 10% solo contando le obbligazioni convertibili in mano appunto al fondo di gestione del risparmio. Naturalmente però, come qualche analista operatore ha sottolineato, è il caos a costituire la PIL speculativa attivo di Telecom in questo momento, perché dimissioni dei manager Telefonica dal Consiglio di amministrazione, punto di domanda sulla revoca o meno del Consiglio di amministrazione nell'assemblea di venerdì, BlackRock che cresce, naturalmente a questo si è aggiunta anche l'interesse di Deutsche Telekom per un gruppo americano di telefonia Sprint che potrebbe essere oggetto appunto di acquisto da parte del gruppo tedesco. Questo ha portato alla forte speculazione sul settore delle TLC e Telecom ha guadagnato per questo il 5%. Bene anche Unicredit, molto bene, più 5%, Intesa San Paolo più 4,20%, assieme anche alla Popolare Emilia Romagna più 3,40%, al Banco Popolare più 3%, Pop Milano più 2,60%, Fondiaria Sai più 2,20%. Le banche. Per quanto riguarda le banche, oggi ancora una correzione dello spread che è arrivato in area 220 e ha corretto ulteriormente, ha chiuso intorno ai 221, ma naturalmente l'euforia che, insomma, o almeno l'ottimismo che sui mercati europei è partita con l'attività, il buon indizio, lo buon indice dell'attività manifatturiera nell'Eurozona, ed è stato poi sostenuto anche da una produzione industriale americana in forte crescita a novembre. È un'euforia che ha contagiato un po' tutti i settori e i bancari in particolare ne stanno approfittando per recuperare terreno dopo un mese un po' di aggiustamento. Ancora Finmeccanica da un lato, perché il titolo comunque poi si è un po' ha un po' ritracciato. Ah no, scusa, eccolo qua, più 3%, guadagniamo anche di più, più 3% Finmeccanica, bene anche A2A più 2,90%, Enel più 2,5%, Eni più 2,30%. Finmeccanica da un lato, dicevo, dall'altro invece Autogrill meno 2,12%, la controllata World Duty Free meno 1,20%. Per Finmeccanica diciamo un buon andamento per tutti gli industriali, anche Fiat e CNH si sono ben comportati. Finmeccanica peraltro ha anche incassato una nuova commessa del valore di 120 milioni di dollari dalla compagnia di leasing Aviation. Appunto si è ben comportata come molti titoli del settore industriale, mentre continua questa debolezza e questo andamento altalenante per Autogrill e per l'altra società ad essa strettamente legata, cioè World Duty Free, ancora un aggiustamento dopo lo scorporo delle due società che continuano ad alternare performance positive a correzioni. Su Autogrill c'è da dire che ha anche su entrambe le società c'è da dire che ha un po' influito il possibile innalzamento delle tasse sui biglietti aeroportuali statunitensi e questo ha influito diciamo su questi gruppi presenti in questi settori. Migliori e peggiori, beh, Moncler ne abbiamo ampiamente parlato, peggior titolo Basic Net meno 7,91%. Grazie Andrea Fontana, Radio Corriere sulle 24 ore. poco parleremo del mercato del lavoro, perché c'è uno studio, come anticipavo all'inizio del programma, molto interessante su questo. Però fatemi aprire una brevissima parentesi su un fenomeno che sta prendendo sempre più piede a Milano e arriverà a Roma, a Torino, nelle grandi città. Un fenomeno, secondo noi, molto positivo. È il car sharing, ossia la possibilità di prendere una macchina a noleggio. Ma mi guarda strano il tecnico. In alcune città c'è già, ma non nella formula che sto per raccontare. E c'è la possibilità di prendere a noleggio una macchina e poi la si lascia, adesso la spiego in maniera un po' brutale, dove si vuole, si chiude l'applicazione e poi quando se ne ha bisogno si rifà il noleggio, non c'è bisogno di portarla in nessun luogo come avviene invece per le biciclette. Perché ne parlo? Perché il fenomeno ha avuto un tale successo a Milano che oggi sono entrati in questo mercato anche tre colossi che si chiamano Fiat, Eni e Ferrovie dello Stato. Hanno presentato un nuovo servizio di car sharing che si chiama Enjoy, e con una flotta di circa 650 Fiat 500 rosse, e quindi con la possibilità di avere i passeggeri anche dietro. In questo momento Milano è previsto solo con la Smart. Un investimento importante a cui ha fatto riferimento il numero uno dell'Eni, Paolo Scaroni, nel ricordare quello che sarà comunque l'investimento complessivo di Eni in Italia. Lo ha fatto al microfono della nostra Claudia Vanni. Ridurre la voglia dei milanesi di avere una seconda macchina, magari lasciata in strada per settimane, e rinuncia alla propria macchina per avere una macchina solo quando ne ha bisogno. Queste sono Fiat nuovissime, Euro 6, quindi il massimo che si può fare in termini di riduzione delle emissioni, e ridurranno altre emissioni molto più inquinanti. Quanto investe Eni in Italia? Investiamo nei prossimi 4 anni 8 miliardi di euro. Lo si fa di più all'estero? Noi investiamo molto anche all'estero, perché siamo una società con vocazione globale e quindi investiamo dappertutto. Però i nostri investimenti italiani sono degli investimenti su cui contiamo da un punto di vista della redditività, e quindi sono investimenti che potrebbe fare chiunque. E sempre sugli sull'operazione, sentiamo, e sempre al microfono della nostra Claudia Vanni, anche il numero uno delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti, e subito dopo invece il CEO di Fiat Chrysler, Alfredo Altavilla. Vogliamo estendere con partnership non solo al treno tra una città e l'altra, ma all'interno della città la diffusione più sostenibile attraverso queste forme di car sharing, ma anche le biciclette. A proposito di prezzi, proprio in queste settimane si discuteva anche di un aumento degli abbonamenti dei treni per i pendolari. Come Ferrovie dello Stato, come gruppo, non abbiamo nessun aumento in previsione. Gli aumenti li stanno discutendo le regioni, perché sono loro che fanno i biglietti per il trasporto pendolare, noi non incidiamo in questa loro volontà. Qualcuno pensa di dover fare delle fasce diverse di bigliettazione. Se lei va in Francia piuttosto che in Gran Bretagna o anche negli Stati Uniti, troverà normalmente una bigliettazione a fascia oraria, che naturalmente tende a far sì che si voglia incoraggiare la gente a utilizzare i mezzi collettivi, che in un'ora e mezza la mattina sono affollatissimi, a spostare magari di solo quarto d'ora o mezz'ora verso un'altra fascia per poter avere un viaggio più comodo e più confortevole. Il mercato sembra che si stia stabilizzando sui livelli molto bassi che abbiamo già sperimentato negli scorsi mesi. Vediamo un'Italia ancora abbastanza negativa, mentre invece nel resto d'Europa probabilmente il mese di dicembre potrebbe essere leggermente positivo rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Così quest'ultima voce, Alfredo Altavilla, sulle previsioni per il mercato dell'auto. Adesso il traffico, che casca a fagiolo, e poi il mercato, o meglio il non mercato, del lavoro giovanile. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, parliamo di disoccupazione e anche occupazione, che non sono la stessa cosa. Una misura, appunto, il numero di persone che cercano un lavoro e non lo stanno trovando, i disoccupati, e gli occupati invece sono tutti quelli che lavorano a fronte del potenziale ammontare dei lavoratori in un paese. Ne parliamo perché se ne sta discutendo durante un convegno organizzato dall'Aspen Institute, in cui viene presentato uno studio sulla disoccupazione giovanile prodotto da Credit Suisse. Siamo in collegamento con l'economista di Credit Suisse, Giovanni Zanni. Buonasera innanzitutto. Buonasera. Senta, dottor Zanni, al di là dei dati che ho citato, che vanno purtroppo nella scia e sono relativi ancora solo al 2012, nel vostro rapporto, se ho ben capito, voi puntate l'indice e sottolineate il fatto che il problema dell'Italia, della disoccupazione giovanile italiana, non sia solo la disoccupazione in sé, quanto la bassa occupazione. Anche qui chiarisco, disoccupati sono tutti quelli che cercano un lavoro e non riescono a trovarlo, mentre occupati sono tutti quelli che hanno un lavoro e va a vedere praticamente il totale delle persone che potrebbero lavorare. Perché c'è una differenza? Perché per esempio nei disoccupati non figurano le persone che hanno smesso di cercare un lavoro, si sono ritirate dal mercato del lavoro perché pensano di non trovarlo oppure per altre esigenze. Per cui il tasso di occupazione va a misurare chi ha un lavoro tra tutti quelli che potrebbero averlo, invece il tasso di disoccupazione va a misurare chi non ha un lavoro tra chi lo cerca. Ecco, perché vi preoccupa più il tasso di occupazione? Buonasera, comincerei innanzitutto nel dire che i dati che ha citato sugli ultimi 5 anni chiaramente sono legati alla recessione più importante che abbiamo visto non solo in Italia ma dal dopoguerra, e quindi insomma c'è stata una perdita di lavoro importante a tutti i livelli. Allora, chiaramente le cose adesso stanno migliorando, lo dice il governo, ma anche quello che vediamo noi nei dati e nelle inchieste, solo che una crescita, quella che vediamo, che non può portare a un aumento molto forte del lavoro di per sé, quindi ci vogliono sicuramente delle azioni e bisogna utilizzare nuovi strumenti per aumentare l'occupazione. Allora, quello che dicevo in termini di quello che scrivo in termini di occupazione giovanile è che tutti si concentrano su questo numero di disoccupazione che è molto elevato, insomma stiamo parlando del 40% e passa di disoccupazione giovanile, soprattutto per i 15-24 anni. Però quando uno va a vedere i numeri si rende conto che in realtà gran parte di questo numero così elevato è dovuto al fatto che molti giovani in quell'età in realtà non stanno cercando lavoro, in gran parte perché sono studenti, molto più di prima, quindi c'è un livello di non ricerca del lavoro per motivi negativi ma anche per motivi positivi negli ultimi così 10-20 anni. Cioè, mi faccia capire, lei dice c'è un calo dell'occupazione, cioè di giovani che non stanno cercando un lavoro, quindi non rientrano nei disoccupati, ma esatto, contribuiscono a creare un abbassamento del tasso di occupazione perché queste persone studiano più a lungo, diciamo, possiamo dire così, conducono studi post-universitari. E questa spiegherebbe in parte, e in parte sarebbe una notizia positiva. Le chiedo però, non può essere che uno continui gli studi anche perché mancando un lavoro cerca di continuare a qualificarsi? Allora, sì, poi i motivi purtroppo sono sempre complicati, però ecco, i trend che sto, insomma, che ho appena descritto sono dei trend che non sono negli ultimi 5 anni, è una cosa che si vede da svariate decine di anni, quindi è un trend normale. Per capirci, alla fine degli anni 80 avevamo più disoccupati tra i giovani di oggi, ma il tasso di disoccupazione era più basso. Il tasso di occupazione era più basso? No, anche il tasso di disoccupazione, okay. Perché il numero di disoccupati e il tasso di disoccupazione, perché la popolazione in quell'età che lavorava all'epoca era più elevata. Ora, okay, molti di questi che sono tra i 15 e i 24 anni, molti giovani in realtà sono oggi inattivi per motivi anche di studio. Mm-hmm. Quindi quello che voglio dire è che il problema non è da sottovalutare assolutamente, è anzi molto importante ci si concentra su questo problema, perché è un problema che sta creando poi una specie di consenso europeo e ci sono delle nuove misure per aiutare i giovani che partiranno l'anno prossimo e che in teoria saranno molto interessanti e molto importanti. Insomma, l'implementazione di queste misure sarà un po' il test l'anno prossimo, non solo del nostro governo ma in generale in Europa, per cambiare le cose sull'occupazione giovanile. Però quello che voglio dire appunto è questo, che uno si concentra sul numero altissimo di disoccupazione, non va a vedere che in realtà il numero poi di persone disoccupate dei giovanissimi non è aumentato rispetto al passato, proprio perché c'è stato questo cambiamento di giovani che sono più insomma, studiano tra quell'età, soprattutto se lei pensa appunto ai 15-20, chiaramente moltissimo, i 20-24 forse un po' meno. Ecco, seconda domanda che ho per lei, però quindi c'è una componente dovuta alla crisi, ma c'è anche una componente più strutturale, culturale, che va avanti da ben prima che la crisi iniziasse. Però c'è un altro aspetto del vostro rapporto che mi ha incuriosito, perché tra l'altro voi sottolineate che il rapporto disoccupati popolazione per la fascia 15-24 è all'11%, meno di quanto non si registrasse negli anni 80, che era del 15%, e in linea con la Gran Bretagna. Però poi voi dite sulle riforme del mercato del lavoro, attenzione, si possono fare altre riforme che possono aiutare, ma l'Italia, se ho ben capito quello che sostenete, ha già un livello di flessibilità del mercato in linea con quello di altri paesi europei. Allora qual è il punto su cui operare? Allora, sì, effettivamente se uno va a vedere gli indici di flessibilità del mercato del lavoro, per esempio dell'OCSE, che sono quelli più utilizzati, addirittura la Francia e la Germania sono considerati come meno flessibili dell'Italia. Cioè hanno mercati di lavoro più rigidi del nostro, sia la francese che il tedesco. Secondo questi criteri, sì, chiaramente sì, non includono tutto, ci sono altri problemi in Italia che sono magari legati a problemi giuridici che non sono propriamente legati al mercato del lavoro. Comunque quello che propongono molte istituzioni, io direi che sono cose giuste, prima di tutto sono delle riforme che riguardano la semplificazione di alcuni strumenti che esistono già nell'ordinamento italiano, ma che per vari motivi nell'implementation, cioè nella messa in pratica di queste misure, trovano ostacoli. Un esempio classico è quello dell'apprendistato, che è un'ottima idea della riforma Fornero, eppure è quello che sento è che ci sono problemi nella messa in pratica e nell'effettiva utilizzazione di questo strumento. Poi ci sono altri elementi che sono quello di creare opportunità di lavoro, e qui si tratta di in realtà coinvolgere molto di più i centri d'impiego, le imprese e tutte le istituzioni che possono essere legate al mercato del lavoro, soprattutto quello dei giovani. Beh, quindi lei ci sta dicendo, nel ringraziarla perché il tempo è scaduto, che più che un'ulteriore riforma del mercato del lavoro, implementare, rendere operative le riforme già esistenti e poi anche un migliore e più efficiente incrocio, anche utilizzando i soggetti privati, della domanda e dell'offerta. Grazie all'economista, autore del rapporto di Credit Suisse, Giovanni Zanni. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Cito solo una frase di Mario Draghi uscita poco fa, ha detto che è effimero pensare di poter ottenere qualcosa uscendo dall'euro, e non esistono piani di uscita dalla moneta unica perché l'euro è irreversibile e non c'è la possibilità di uscirne. Con questo vi auguro buona serata, non so se è una buona o una cattiva notizia, per alcuni sarà cattiva. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.